Allora, buonasera. Faccio una piccola presentazione formale del corso. Allora, questi sono seminari che abbiamo organizzato noi studenti. Hanno un valore duplice, diciamo, oltre a interessarci il tema in sé della psichiatria della Rignanza, volevamo anche utilizzare questo spazio come uno spazio nostro degli studenti per affermare la presenza all'interno dell'università e dunque affermare anche l'università come la vogliamo noi. Il tema della psichiatria poi ci permetterà di affrontare molti nodi interessanti, così come quello della devianza. Il tema della devianza che abbiamo visto essere di attualità nella gestione della città del tempo di Bermuda, dove sono stati arrestati sabato sera tre ragazzi che inspettamente erano anche nostri amici comunque, e in una gestione opinabile, diciamo, del territorio. Questo per quanto riguarda l'introduzione dal punto di vista teorico. Formalmente, adesso faremo girare questo foglio per le firme e dovete mettere come firma l'ora di entrata alle 6:15, firma di uscita alle 7:15, questo perché abbiamo calato ogni lezione come la durata di un'ora e mezzo, dopo forse cederemo un quarto d'ora, ma non è un problema. Tanto firmate l'entrata, poi me lo riportate, poi all'uscita fare la firma per l'uscita. Sarà rilasciato l'attestato a chi avrà frequentato almeno il 70% dell'orario complessivo. C'è qualcuno di scienze della comunicazione? No. Bene. E per quanto riguarda l'ottenimento del credito formativo, dovrete rivolgervi direttamente al presidente del corso di laurea. Noi abbiamo parlato con qualcuno, con qualche presidente, e alcuni hanno mostrato disponibilità, altri meno, non lo so, dovete chiedere a loro, e comunque noi l'attestato ve lo rilasciamo. E niente, questo è quanto. Adesso inizio a parlare questo e lascio la parola a voi. Ah, ovviamente se c'è qualcuno anche che non frequenta l'università e che vuole l'attestato può firmare tranquillamente. Ma io non parlerò naturalmente. Mi sentite? Non parlerò naturalmente della forma manicomiale, primo, perché non è un tema su cui ho cose particolari da dire. Secondo, perché il mio compito era quello di indicare ciò che l'ha resa possibile, cioè il contesto sociale, economico e politico in cui questo processo matura. E quindi in una qualche misura può darsi che se volete entrare immediatamente in corpore vivi potete avere qualche delusione da quello che vi dirò io, ma forse la delusione può essere compensata da un fatto: non si comprende nell'Italia di oggi, in cui tutta una serie di cose, compresa la riforma Basaglia, vengono rimesse in discussione, ma non solamente la riforma Basaglia, che riguarda una quota importante, ma tutto sommato minoritaria della popolazione, ma fatti, eventi, riforme che hanno riguardato invece, che riguardano ancora fasce maggioritarie della popolazione, basta pensare semplicemente la legge 194, oppure alla legge sul divorzio, oppure a leggi analoghe, se non si guarda ai motivi e al tipo di società in cui questo processo di modernizzazione del paese, di conquista di diritti civili, matura. e se non si analizza contemporaneamente quello che c'era prima, qual era la società su cui si innestano processi di liberazione e processi di rivendicazione di diritti che oggi chiameremmo diritti civili. Per spiegarlo, forse vale la pena di fare un salto indietro. Oggi c'è una sorta di... Guardate, ci sono due sedie qui, io non ne ho bisogno. Oggi noi siamo abituati a pensare, ci hanno abituato a pensare nel passaggio tra la prima e la seconda repubblica a due cose. La prima è che tutto quello che c'era prima era migliore di quello che c'è adesso. La Repubblica è nata su un patto costituzionale siglato dai maggiori partiti popolari, è nato su un evento epico e mitico rappresentato dalla Resistenza, è stato cementato su un patto di sangue, mentre oggi assistiamo a una divisione radicale e profonda del Paese che in una qualche misura fa dire ad alcuni che è giunta l'ora di stipulare un nuovo patto costituzionale, cioè cambiare la Costituzione del 1948 e trovare un nuovo fondamento alla Repubblica. In realtà le cose non sono andate proprio così. Non vi ricordo quello che ha significato la rottura dell'unità tripartita tra i vari partiti che avevano dato vita alla Repubblica. Ma vi vorrei semplicemente ricordare alcuni dati. Il primo è che fatta la Costituzione, tutto ricomincia come prima. C'è un famoso romanzo uscito non a caso alla fine degli anni 50, Il Gattopardo, di Tomasi di Lampedusa, in cui si descriveva in una qualche misura la situazione sostenendo che tutto doveva cambiare perché tutto rimanesse alla stessa maniera. E ora, che cosa avvenne in quella congiuntura? Avvennero dei fatti internazionali che io ricordo solamente. Primo, la rottura del patto antinazista tra gli alleati e l'Unione Sovietica. Secondo, l'inizio della guerra fredda, che significò sostanzialmente instaurare un equilibrio basato prima sulla bomba atomica posseduta solo dagli Stati Uniti e poi invece sulla bomba atomica posseduta sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Sovietica. In terzo luogo questo significò la divisione del mondo e il manifestarsi di una guerra che non fu fortunatamente combattuta, anche se venne anche combattuta, per esempio in Corea, e poi inizieranno le lotte delle rivoluzioni anticoloniali, ma fu combattuta qui in Occidente, soprattutto sul piano ideologico. Fu un periodo che va dal 1947, cioè dal discorso di Foster Dulles e dal lancio della guerra fredda, fino quasi agli inizi degli anni 60. Tutto questo in Italia si innestò su una realtà che in una qualche misura era specifica e particolare. Il nostro paese usciva dal fascismo. Noi siamo abituati a pensare, anche qui secondo una vulgata, o che tutti erano fascisti o che la gente avesse subito il fascismo. Non è proprio così. Ormai c'è una sufficiente riflessione che fa pensare che molti erano fascisti per educazione, che in un qualche modo il regime era un regime di massa che in una qualche misura, pur non facendo le lezioni, plasmava le coscienze delle persone, che gli antifascisti erano pochi e che questi pochi antifascisti in una qualche misura dopo la guerra si trovano a fare i conti con due cose fondamentali. Primo, il fatto che la maggioranza del popolo italiano era stato fascista e che le minoranze erano poche, quindi non potevano ammazzare tutti i fascisti dichiarati o non dichiarati, e in secondo luogo dovevano costruire con questo materiale un nuovo Stato, un Stato diverso. Cosa estremamente complicata, faccio solo due esempi per spiegarvi. Voi sapete che nel 1946, alla fine di una, 46-47, alla fine di una lunga serie di decreti poco finanziali, il ministro della Repubblica, Palmiro Togliatti, ex segretario del, segretario del Partito Comunista Italiano, ex segretario dell'Internazionale Comunista, emanò come ministro della Giustizia il provvedimento d'amnistia. Si disse, da parte fascista, che il provvedimento d'amnistia era stato emanato per un motivo molto semplice, per mettere al riparo i partigiani dalle atrocità commesse. In realtà ci fu anche questo aspetto, ma ci fu un aspetto ancora più sostanziale. Se avessi applicato i decreti di epurazione, tu ti saresti trovato senza la burocrazia dello Stato. La burocrazia dello Stato venne tutta reintegrata all'interno dello Stato stesso, ed era per certi aspetti inevitabile, a meno che tu non scontassi un periodo di confusione che non ti potevi permettere, data la situazione che si era venuta a verificare dopo la guerra, una situazione in cui dovevi ricostruire tutto, in cui dovevi costruire gli apparati istituzionali, gli apparati politici, i meccanismi del consenso, con tutto quello che questo comportò. Diverso di antico all'interno delle istituzioni dello Stato. Quindi ci fu questo primo elemento che in una qualche misura giocò fortemente. Il secondo elemento è il ruolo di quella che Gramsci chiamava la questione vaticana, l'impegno all'interno del paese della Chiesa, che non era di poco conto. Tenete conto che nel passaggio del fronte la Chiesa è l'unica istituzione che non viene toccata ed è quella che a cui in un qualche modo la popolazione si rivolge per avere gli aiuti fondamentali. Il terzo dato è sostanzialmente legato al fatto che era esistita durante tutta la guerra di liberazione una minoranza di fascisti, una minoranza di antifascisti e poi gli ex fascisti che costituiscono la fascia maggiore del popolo italiano, cioè quella che è stata chiamata la zona grigia, cioè coloro che aspettavano giustamente, non tutti erano eroi, non tutti erano combattenti, che la guerra finisse per poter ricominciare a vivere. Ora, voi comprendete che tutto questo, innestato su quel contesto internazionale, provocò un fenomeno che è abbastanza complicato a spiegare. Io ve lo spiego, cerco di spiegarlo in due battute perché non posso perdere più di tanto tempo. Il fenomeno, per una parte, di una Costituzione concordata in cui il peso della resistenza e di buona parte di quelle che erano state le forze politiche più avanzate che al suo interno si erano espresse, gli azionisti, i socialisti, i comunisti, avranno un peso determinante, la Costituzione del compromesso, ma che ancora oggi viene considerata una Costituzione avanzata. Pensate semplicemente all'articolo 1 della Costituzione che dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, per capire quello che voglio dire. Nessuna Costituzione democratica nel mondo c'è un articolo di questo genere. Cioè, è il frutto di una serie, di una composizione di culture, di ideologie, di emozioni, di pulsioni, di gruppi sociali che in una qualche misura pesano all'interno del contesto. Passato il clima dell'unità antifascista e il pathos, quel fenomeno che definivo prima di guerra fredda, in Italia scoppiò una guerra civile fredda. I dati sono impressionanti. Voi giustamente vi lamentate di quello che è successo l'altro giorno in piazza. Beh, calcolate che solamente i morti furono in quella congiuntura, i dati sono stati riportati nel rapporto ritardati al quinto congresso del PC, che non sono stati mai smentiti, 250 morti sostanzialmente in manifestazioni contro la NATO, contro il Patto Atlantico, contro la collocazione internazionale che in quel momento acquisiva l'Italia, oppure i conflitti di lavoro. Gli arrestati furono migliaia, per i motivi più futili, per il fatto di entrare in tasca con un dollaro che non piaceva la direzione aziendale, per il fatto di distribuire volantini davanti allo stabilimento, per il fatto di tutto sommato di essere persone che in un qualche modo protestavano all'interno dell'ambiente di lavoro. I licenziamenti per rappresaglia sono decine di migliaia. Ci fu anche la crisi industriale, ma quando bisognava licenziare si licenziavano sindacalisti e iscritti ai partiti di sinistra o a sindacati di sinistra. In altri termini, dal 1947 fino al 1955-56 si scatenò una battuta in cui si coniugavano due umori, uno tradizionale del paese, un umore autoritario e clericale, per certi aspetti, che aveva anche degli elementi di chiara contraddizione con quello che era il dettato costituzionale, ma anche quella che era la legge ordinaria. Tanto per darvi l'idea, rimase giustamente celebre il fatto che vennero denunciati da un pulpito, da un vescovo, da un parroco, due insegnanti che erano sposati civilmente, sostenendo che non potevano insegnare perché non erano sposati in chiesa. Comprendete che il matrimonio civile, malgrado l'accettazione del concordato, era sostanzialmente una delle conquiste dello Stato liberale. Infatti poi vennero processati, vennero assolti, loro si appellarono denunciando il prete a sua volta venne condannato a una piccola ammenda di rifugio amministrativo. Insomma, questo era il clima. Clima all'interno del quale, in una qualche misura, il paese vive in una situazione difficile, difficile dal punto di vista delle libertà civili e delle libertà democratiche. Intendete? In questo quadro voi vi trovate di fronte a una situazione di doppio stato. Oggi si dice, per fare un esempio, che esiste la Costituzione legale e la Costituzione materiale. Lì la situazione era ancora più complicata, esisteva un regime di doppio Stato, uno Stato che funzionava secondo gli umori tradizionali, sostanzialmente autoritari dello Stato e centralistici dello Stato nazionale italiano, quello che era nato con l'unità d'Italia, e uno Stato che si appellava formalmente alla nuova forma, al nuovo dettato che in una qualche misura la Costituzione aveva costruito per la Repubblica. Pensate, per avere, cioè la Costituzione prevede alcune cose che in una qualche misura ancora non sono state realizzate. Un esempio per tutti, le regioni. L'Italia è una Repubblica che si organizza per comuni, province e regioni. Le regioni sono state fatte nel 1970. 22 anni dopo la promulgazione della Repubblica. ugualmente tutta una serie di provvidenze nei confronti del mondo del lavoro verranno approvate agli inizi degli anni 70, a cominciare dallo statuto per i diritti dei lavoratori, e via di seguito. Cioè, tu ti trovi, in altri termini, di fronte a un apparato, a apparati, a un'organizzazione dello Stato che resiste e contemporaneamente a un dettato costituzionale che ti offre una serie di spazi che però non ti vengono mai concessi, per farti concedere i quali tu sei costretto a battaglie incredibili, sia in Parlamento, sia nel Paese, a scioperi, manifestazioni e via di seguito. Tanto per dare l'idea, basterebbe il fatto che la Costituzione ripudia la guerra e immediatamente uno dei primi atti fatti dai governi centristi fu quello di firmare il patto atlantico, che per quanto dichiarato come patto difensivo era un patto di guerra, era un patto, un'alleanza militare. Ora, questo elemento entra in conflitto con un'altra cosa che in quel periodo si comincia a verificare. È chiaro finora che ci sono oscurità di ragionamento, ma ve lo presento perché non costa niente di spiegare. Che è sostanzialmente questo. L'Italia era stato da sempre un paese agricolo. Si dice oggi con eufemismo agricolo-industriale. In altri termini, l'industria aveva un peso relativo all'interno del nostro paese, riguardava qualche milione di occupati, la grande l'occupazione prevalente degli italiani era sostanzialmente l'agricoltura. Ora, tutto questo cambia dopo la guerra, e guardate, cambia per un doppio effetto. Da una parte, alcune cose decise dal fascismo, poi spiegherò qua. Per un altro aspetto, l'apertura del mercato internazionale. Le due cose sembrano in contraddizione, ma non lo sono. Vediamo quella del fascismo. Voi sapete che ci fu la grande crisi nel 29 e la risposta che venne data all'interno del nostro paese di fronte a una situazione di intreccio tra banca e industria, in cui le banche riuscivano a trascinare all'interno, che erano le proprietarie, le principali detentrici dei pacchetti azionari della grande industria, tutta la cantieristica, la siderurgia, buona parte della chimica, buona parte della meccanica, erano i pacchetti azionari delle società per azioni, erano in mano a due banche fondamentalmente, la Banca Commerciale Italiana e il Credito Italiano, che erano due grandi banche miste, cioè banche che facevano credito ordinario e credito industriale. Come avrete notato in quest'ultimo periodo, se una banca si trova in crisi, i problemi che si pongono sono enormi, immensi, cioè rischia di trascinare dietro anche il settore industriale. Se la banca non può assicurare il cash flow a un'azienda, cioè i soldi, la cassa, ovviamente l'azienda non può pagare i salari, non può fare cambiali a dilazionate, e si trova in una situazione di eccessiva difficoltà. Lo Stato italiano, lo Stato fascista, riprende sull'onda di quella che era un'esperienza già maturata durante la Prima Guerra Mondiale e poi durante i primi anni del dopoguerra, grazie a un uomo che non aveva nulla a che fare con il fascismo, una serie di tecnici che erano a lui legati, cioè Mitti, Francesco Saverio Mitti, una politica di intervento pubblico che diventerà organica con Alberto Beneduce, che era un vecchio socialista riformista che era diventato un grande tecnocrate del regime e che darà vita prima all'Istituto Mondiale Italiano, cioè il luogo dove si concentravano le azioni delle aziende in perdita, poi all'Istituto di Ricostruzione Industriale, che era l'IRI, cioè una holding in cui tu fornivi come Stato capitali, tecnici e garanzie al sistema economico, garantendo comprendo anche il management. Il management. Ora, tutto questo si presenta come una situazione temporanea. Ma nel 1937 Beneduce, Alberto Beneduce, che era il capo dell'IRI, riesce a trasformare l'IRI, che era un istituto provvisorio, in un istituto definitivo. È un istituto definitivo ordinario. Adesso guardate, c'era un disegno al contrario di quello che avviene oggi di politica industriale. Cioè l'idea che se tu avevi in mano cantieristica, siderurgia, chimica, alcuni settori agricoli, potevi per un verso controllare i prezzi, nel senso che li facevi tu, essendo tu sta, e per altro verso garantire alla rete delle piccole e medie imprese e a alcuni settori privati della meccanica materie prime a basso costo. Potevi garantire in altri termini il flusso degli investimenti. Dopo la guerra, Beneduce era morto, morì nel 1941, ma c'è il suo uomo, alcuni fortemente compromessi con il regime fascista, come Agostino Rocca, uno dei maggiori manager che addirittura emigrò in Argentina, dove ha costituito uno dei più grandi gruppi industriali italiani all'estero, la Tenaris, quella che oggi in Italia c'è la Dalmine. Ma c'erano poi tutti gli altri, c'era Oscar Senigallia per la siderurgia, ma c'erano anche altri fior di tecnici e di manager che erano sì stati compromessi col fascismo, ma sotto questa forma. E si apre uno scontro tra quelli che dicono, compresi alla sinistra, che bisogna rompere l'assetto monopolistico del capitalismo italiano e quindi privatizzare o dismettere alcuni settori, e chi invece sostiene che questi settori sono alla base di un futuro sviluppo, soprattutto in un momento in cui i mercati si ampliano. Insomma, ogni tanto forse qualcuno avrà sentito parlare del piano Sinigaglia, in realtà il piano Sinigaglia era un piano in cui attraverso una serie di accordi internazionali, che poi verranno definiti come CECA, cioè la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, tu avresti portato la produzione italiana di acciaio da 300.000 a 1.500.000 di tonnellate. Il che significa rifornire tutta l'industria meccanica che in quel momento cominciava a sorgere. Insomma, oggi può sembrare strano, ma non fai senza acciai speciali, senza acciai magnetici, senza inossidabile, i frigoriferi, le cucine, le lavatrici, i piccoli elettrodomestici e via di seguito. Non puoi neppure garantire il settore automobilistico, oggi si fanno con le resine, una volta si faceva un però con l'acciaio. Non puoi garantire i settori, per esempio, delle costruzioni, il cemento armato significa che dentro si può dire l'acciaio, e via di seguito. Non puoi garantire in altri termini quello che è sostanzialmente il meccanismo di sviluppo economico del paese. In un mercato aperto tu puoi garantirlo perché come Stato puoi garantire costi bassi di produzione e prezzi bassi per gli altri settori industriali. Guardate, questa cosa non fu voluta, La volle fortemente Senigallia e il suo gruppo. Senigallia poi morì rapidamente, fu fortemente boicottata da tutti, come fu boicottato per esempio il tentativo di rendere autonoma l'Italia dal punto di vista energetico. Leni, Mattei combatté come un forsennato, forse più che nella resistenza, di cui era uno dei capi per la Democrazia Cristiana, per salvare prima l'ACIP, avrete visto il film, è inutile che ve lo racconto, e poi per fare una operazione politica che significava discutere con i paesi terzi mettendosi contro le sette sorelle, cioè il monopolio internazionale del petrolio. Ora, e su questo ha costruito un'azienda che malgrado la sua morte, malgrado quello che è successo dopo, che ciò di lei ancora regge. L'ENI è una delle poche imprese italiane che continua tutti gli anni a fare utili, garantendo un monopolio pubblico del settore energetico. Ora, questo tipo di operazione provoca, a partire dalla seconda metà degli anni 50, grazie anche a quella repressione di cui parlavo prima del mondo del lavoro, e quindi un regime di bassi salari, uno sviluppo enorme dell'industrializzazione italiana. Che significa poi tutta una serie di scelte in parte scellerate, per esempio quella a favore del mezzo di trasporto privato, che però nell'immediato pagarono. Basterebbe guardare semplicemente i dati prima dei ciclomotori, poi delle motociclette e poi delle automobili. In pochi anni si compie la modernizzazione del paese, se si passa da poche centinaia di migliaia di automobili a milioni di automobili. Milioni. Basterebbe solamente vedere quanto è il tratto autostradale. In pochissimi anni, tra il 58 e il 63, si costruisce la stragrande maggioranza delle autostrade italiane. Basterebbe cominciare a guardare, per esempio, tutta una serie di infrastrutture che proprio in quel periodo vengono incentivate. Si parla oggi del piano Fanfani per le case popolari. Beh, piano Fanfani per le case popolari significò centinaia di migliaia di abitazioni per impiegati, per operai, meno di quelle che occorrevano, ma rappresentò un volano enorme per l'economia italiana, che è tutto il settore delle costruzioni. Ora, e in più questo stimolò processi di innovazione tecnologica. Faccio un solo esempio per capire che cosa. I polimeri non sono altro che rendere fissa una struttura, la struttura della materia, in modo artificiale. La materia è ordinata secondo una serie di esagoni, se guardate. Beh, stabilizzare questo, il che significa costruire, avere un nuovo materiale di costruzione. Di che cosa? Di tutto. L'esempio tipico è, pensate, voi siete una delle prime generazioni da pannolino. Da pannolino traspirante. Il che significa che il pannolino che vi mettevano, perché voi mettete i vostri figli, traspira. Quando lo togliete, lo buttate e il bambino non è infiammato, non si infiamma. Ora, questa cosa qui, che sembra oggi una banalità, è il frutto di una tecnologia raffinata che è sostanzialmente quella di derivare, di costruire nuovi materiali con i derivati del petrolio, con gli scarti. Cioè con un materiale di base che non costa niente, il passaggio successivo sono le resine, quelle con cui oggi si fanno le case. Voi vi trovate quindi di fronte a questo paese che ha uno sviluppo accelerato e che da un'altra parte che cosa c'ha? C'ha le mammane che procurano aborti, c'ha i mariti che possono continuare a ammazzare le mogli, c'ha marito e moglie che litigano che non si possono separare. C'ha il fatto che se ti sposi col matrimonio civile sei preso di mira dallo Stato, il fatto che se manifesti davanti alla tua fabbrica o protesti per cattive condizioni di lavoro vieni in una qualche misura incarcerato o messo in una parte. C'hai uno Stato fondamentalmente repressivo, un regime in cui tutti i poteri si coagulano, cioè oggi si parla tanto del regime, dov'è? I magistrati si mangiano i politici mangiano tra di loro, il Parlamento fa pugni con l'esecutivo, il Presidente della Repubblica litiga col Presidente del Consiglio. No. E ciò nonostante. Assomiglia. Però un regime è un meccanismo all'interno del quale l'insieme dei poteri in una qualche misura si compone organicamente ed esclude chi il potere non ce l'ha. Comprendete che quando tu hai gli apparati ideologici nelle mani, la scuola, l'università, cioè se parla tanto della egemonia comunista nella cultura, sì, ma i vari quattro cinematografari, poi contavano poco e niente, o qualche romanziere, nelle università non si entrava se non si facevano determinate trafile. Quando hai nelle mani la magistratura, quando hai nelle mani l'apparato repressivo dello Stato, quando hai nelle mani la possibilità di premiare, di punire e di determinare tramite apparati biologici forti come quelli religiosi quello che sta, quello che per te è devianza, comprendi che comprenderete perfettamente che l'elemento di chiusura dello Stato, della società pubblica, fa a pugni con una dinamicità dell'economia che non si è mai più conosciuta all'interno del paese. E fa a pugni anche per un altro fatto, che gli anni 50 e poi gli anni 60 sono anni di migrazioni bibliche, in cui lo spostamento da nord a sud non riguarda qualche centinaia di migliaia di persone, ma riguarda milioni di persone. Guardate, è cioè, forse qualcuno di voi sa che cos'è comma 22. Comma 22 è un comma del regolamento dell'esercito americano per cui si stabilisce che se tu sei pazzo non puoi fare il soldato, ma se dici che sei pazzo vuol dire che lo puoi fare, perché non lo sai. Quello che succede in Italia per lo spostamento della popolazione è la stessa cosa. Le leggi fasciste, ma non è tutto, le leggi contro l'urbanismo prevedevano un po' quello che si prevede adesso degli immigrati, che se tu avevi il contratto di lavoro ti potevi spostare, ma se non avevi il contratto di lavoro ti davano il foglio di via, come si faceva con le prostitute, e te li mandavano a casa. Chiaro? Ora, il punto è che il lavoro va dove c'è possibilità di lavorare e la gente si sposta indipendentemente dal foglio di via, indipendentemente, e quindi tu avevi questa sorta di migrazione da nord e sud che assumeva le dimensioni di centinaia e centinaia di migliaia di persone, con tutto quello che questo comportava, col fatto che dove si andava non c'erano case, col fatto che gli affitti lievitavano, col fatto che si creavano situazioni di disagio anche per i residenti, con le famose cartelli, non si dà a casa, qui non possono entrare i cani e i medievali. Che è un po' simile a quello che avviene adesso. Ora, il problema è che questo tipo di situazione alla lunga non diviene più tollerabile. Non diviene più tollerabile perché in una qualche misura bisogna dare delle risposte. E su questo, dalla fine degli anni 50 fino al 63-64, matura quell'esperienza che va sotto il nome di centrosinistra, che non fece molto. Però alcune cose le fece. Proseguì sulla linea di Senigallia e dell'industria di Stato, cioè pubblicizzò l'energia elettrica, che non era un fatto da poco. Qualcuno di voi forse non ha detto tutte le volte che lasciate la luce accesa la spegne. Il motivo c'è, perché quando arrivavano le bollette erano bollette sproporzionate rispetto ai redditi. L'energia elettrica è un tipico sistema di monopolio in cui il prezzo lo fa l'azienda. Metterla in mano allo Stato significava garantire prezzi bassi per le imprese, prezzi bassi per le famiglie. Oggi, malgrado i rincari, grosso modo una bolletta elettrica, se ci stai minimamente attento, ha una lievitazione enorme. Negli anni sui precedenti costava relativamente poco. Secondo elemento, la scuola media unica, cioè lo stabilire che, al contrario di quello che si dovrebbe fare adesso, la scelta tra i vari indirizzi di studio sarebbe maturata a 14 anni e non a 10 anni, a 11 anni. Prima c'erano due settori, chi faceva la scuola media poteva fare le scuole tecniche e i licei, gli altri facevano l'apprendistato al lavoro. Certo, potevano anche trasmigrare, ma grazie a un'odissea d'esami che non vi sto a descrivere perché era lunghissima. Il terzo elemento che in una qualche misura maturò fu sostanzialmente il tentativo di costruire un elemento di programmazione economica, cioè un'economia regolata. Contemporaneamente si cominciò a discutere sui primi embrioni di Stato sociale, ma soprattutto si garantirono tanto al settore pubblico quanto al settore privato, non si poteva fare diversamente perché i profitti erano enormemente cresciuti e i salari erano rimasti allo stesso livello in cui erano 10 anni prima, si garantì aumenti salariali di una forti rispetto a quelli di solo 5-6 anni prima. L'esperimento è finito rapidamente, Pietro Nenni, leader del Partito Socialista, lo definì il fallimento come frutto del quinquennale di Sciapole, in altri termini il fatto di voler fare una riforma urbanistica che mettesse un po' di tasse sui suoli e impedisse lo scempio che oggi abbiamo sotto gli occhi, il fatto di voler controllare minimamente l'allocazione delle risorse e quindi un controllo degli investimenti e dei redditi bancari. Tutti questi fatti qui fecero dire a Guido Carli, che allora all'epoca era il presidente della Banca d'Italia, che si era sul ruolo di un colpo di Stato comunista, che quindi era giusto svegliarsi e in una qualche misura prendere le contromisure opportune. Qui esplode chiaramente la crisi del regime. Quello che era la pezza a colori che aveva cercato di metterci non funziona. E contemporaneamente non si riesce a comprendere quale sia la soluzione di fronte a un mondo del lavoro che peraltro continua a chiedere un riequilibrio del rapporto tra salari e profitti e che su questo costruisce una sua unità, quella che è stata definita unità sindacale. Ecco, allo stesso tempo matura un ulteriore elemento, sia sul piano internazionale che sul piano interno. Qual è questo elemento? È sostanzialmente il fatto di cominciare a ragionare sul superamento della guerra fredda. Più semplicemente, cercare di cominciare a superare l'equilibrio del terrore e cercare di costruire un dialogo tra le diverse culture e ideologie. Questo da parte dell'Unione Sovietica, matura a partire dalla fine degli anni 50, con Khrushchev, il quale organizzerà un ragionamento basato sulla cosiddetta coesistenza pacifica. Cioè, qual era la sostanza? La sostanza del ragionamento è: noi possiamo vincere sul capitalismo perché siamo più efficienti economicamente. Non era vero niente, come ha dimostrato. E quindi dobbiamo giocare una gara sul terreno economico, non politico-militare. Dall'altra parte, dopo la crisi dei missili e dopo che l'esplosione dei paesi coloniali, le rivoluzioni comuni coloniali, avevano disgregato i grandi imperi coloniali, francesi, inglesi e via di seguito, si comincia a discutere sul fatto che bisogna dare un'apertura a una situazione di dialogo. I personaggi che in una qualche misura danno in là a questo tipo di realtà sono sostanzialmente due. Da una parte anche uno sicuramente sovradimensionato, come fu John Fitzgerald Kennedy, ma che tutto sommato faceva un ragionamento per alcuni aspetti analogo a quello che sta facendo oggi Obama. Ho visto gli entusiasmi che ha sollecitato Obama, molto più ragionevoli, nel senso che Obama non era il figlio di Joseph Kennedy, cioè un capitalista colluso con la mafia, ma era tutto sommato una persona normale, un afroamericano, anche simbolicamente rappresenta molto di più di quello che rappresenta la gente. Dall'altra parte, e questo è invece molto importante sul piano interno, quello che è l'apparato ideologico fondamentale su cui si costruisce il regime democristiano, se vogliamo così definirlo, la Chiesa comincia ad aprirsi. E comincia ad aprirsi con un Papa che è Giovanni XXIII, cioè con un'idea che susciterà molte speranze, rapidamente deluse, ma che in una qualche misura si poneva il problema di dialogare con altre culture e di rendere meno chiusa, meno autoreferenziale quella che era la cultura cattolica. Guardate, questo assume un elemento estremamente importante, perché tutta una serie di esperienze riguardanti la liberazione, riguardante il rapporto con i poveri, riguardante il rapporto con gli ultimi, nasceranno proprio all'interno di quelli che sono gli insegnamenti del pontificato di Giovanni XXIII. Questi tre elementi in una qualche misura portano all'esplosione della crisi. Se la dobbiamo guardare a distanza di 40 anni, di più di 40 anni, il 68 non è altro che questo. Il precipitare di tutta una serie di umori del paese, il tentativo di dare una risposta ad alcune ingiustizie e il tentativo di conquistare livelli di vita più civili. Per dare l'idea, il 68 si è sempre detto che inizia nell'autunno del 67, in realtà comincia un anno prima, con una cosa banale, casuale, che è sostanzialmente la pubblicazione di un giornaletto studentesco che si chiamava La Zanzara, in un liceo bene di Milano, di Parini, dove i redattori fanno un'inchiesta sulla sessualità dei giovani, ora obiettivamente. Però tenete conto che c'era un giornale che si chiamava ABC che faceva cose dello stesso genere, in cui ogni tanto pubblicava foto di donne in bikini, che una settimana insieme, una settimana no, una settimana. Cioè, oggi fa scandalo questo, non le donnine seminude che pubblicava lui, perché sostanzialmente basta accendere la televisione, andare in nemico e c'hagli tutto di più. Però lei il clima era questo, e su quello comincia una rivolta che non riguarda più i ceti popolari, gli operai, e non coinvolge solamente i problemi salariali o normativi degli ultimi, ma coinvolge un pezzo della futura classe dirigente, di quella che è l'intelligenza, la futura intelligenza, che poi in buona parte tradirà questo tipo di funzione giovanile, ma in gran parte, per un lungo periodo di tempo, rimette in discussione gli apparati ideologico-concettuali su cui ti stavi muovendo. Ora, quindi, se andiamo a vedere il 68, da cui nasce tutta questa roba qua, ci si accorge che è una sorta di rivoluzione democratica che porta a casa alcuni diritti di cittadinanza e contemporaneamente l'affermare una cultura di modernizzazione. Noi abbiamo sempre pensato che le culture dominanti all'interno del 68 fossero le culture, chiamiamole, marxiste. In realtà non fu così. Erano culture libertarie che maturavano all'interno di un contesto che era un contesto che pochissimo aveva a che vedere con idee socialiste e comuniste, che era il contesto americano. Pensate a alcuni fenomeni, la musica. Consumo musicale, in quel momento diventa un consumo impressionante, pensate, solamente quello che significò senza pubblicità quando Dossena, cioè un discografico, organizzò il primo festival del rock a Milano. Migliaia di giovani a sentire un perfetto sconosciuto che si chiamava Adriano Celentano. Perfetto sconosciuto, parliamo della fine degli anni 50, 58-50. Immediatamente la cosa diventò un fenomeno d'ordine pubblico. D'ordine pubblico. I giornali discutevano sull'immoralità dei giovani che ballavano in rock. Quindi, capite, il problema era di questa natura qui. E in questo quadro maturano poi gli altri pezzi di ragionamento. Matura la riforma della magistratura, matura la riforma della polizia, del sindacato di polizia, maturano la legge per il divorzio, la legge per l'aborto, la 194, e ultima in ordine di tempo, e ultima proprio, la legge italiana. In altri termini, è questo clima che in una qualche, che sarà ultima sul serio, perché poi con l'inizio degli anni 70 di nuovo cambierà il clima, e il tentativo e la possibilità di cambiare il paese saranno come si dice, destinati a un periodo che ancora non è arrivato. Cioè sono, il paese è per certi aspetti tornato indietro, per altri aspetti è rientrato all'interno di quel clima di conformismo che è solo temperato dal fatto che in una qualche misura il tempo è passato e sostanzialmente la presa di quelli che erano gli apparati ideologici tradizionali non funziona più, come si vede anche nei fatti degli ultimi giorni, il modo in cui reagisce la Chiesa, che è stata in qualche modo questa discussione della Chiesa con questo problema degli abusi e via dicendo. E quindi comprendete che anche la restaurazione ha dei livelli di imperfezione che in una qualche misura suscitano al solito nuove contraddizioni e nuovi problemi. Quindi in più c'è una questione molto, molto complicata da spiegare, però sulla quale varrebbe la pena di discutere, che da una parte hai un legge e ordine, o invocazione di legge e ordine, e dall'altra parte hai il liberalismo pensato come ognuno fa quello che diavolo gli pare. Per cui oggi da sinistra si difende un concetto che una volta difendeva la destra, che è il concetto di legalità. Beh, pensateci, è sostanzialmente l'eterogenesi dei fini, per cui il fatto che in realtà mi trovo di fronte a un tessuto per molti aspetti sbagliato. Ecco, io mi fermerei qui, anche perché mi pare che ho parlato abbastanza, se qualcuno vuole porre domande, sperando di essere stato chiaro e di avervi fornito qualche elemento in più per capire le discussioni. Non serve a fare un lungo ragionamento sulle culture altre, ma questo lo farei più o meno con Sorrentino, sulle culture della liberazione, che sono cosa più complicata delle culture di sinistra, ma credo che questo lo affronterete domani, e quindi io non vi tengo oltre. Delle domande per caso vogliamo fare? Sì, una nella scena, forse buona, non so. Questa cosa che ha delineato, che porta al 68, come si innesta poi, come si incrocia con quello che accade oggi? Ma con quello che accade in Francia, con quello che accade nel mondo. In Francia, nel mondo, sì, effetti, accade prima. Lo cerco di spiegare lo più semplicemente possibile. Quello che era avvenuto in Italia era avvenuto in altra maniera e in modo più temperato negli altri paesi europei, soprattutto in Germania e in Francia. Era avvenuto anche negli Stati Uniti. Cioè, in realtà, magari gli Stati Uniti siano il top della modernizzazione, e tu ti trovi di fronte, su questo Kennedy contò, tu ti trovi di fronte a un paese dove le contraddizioni sono affissate. Pensate solamente alla discriminazione razziale, alla discriminazione razziale, cioè al fatto che in tutta una serie di città tu, neri e bianchi, non potevano sedere sulla stessa parte del pullman. C'è una famosa battaglia condotta, mi pare, dove tutto sembra nascere spontaneamente. Spontaneamente il cavolo. Se viene Sandro Portelli, l'americanista, vi racconta per filo e per segno come quello sia un capolavoro di organizzazione. E dove la donna che assume il ruolo di simbolo in realtà era una militante politica anti-apartheid legata al Partito Comunista Americano da 25 anni, cioè era proprio quella che avevano preso per utilizzare all'interno di loro, perché non aveva paura, non c'era manco più la possibilità di rischiare oltre un certo limite, e tutto il gioco che si costruisce intorno a questa figura di povera negra sfruttata che si ribella alla discriminazione, si ribella su un impeto di conquista della dignità personale, quella era un militante politico costruito ad arte per fare questo tipo di operazioni. Poi si è venuto a sapere, e giustamente si è venuto a sapere. Ora, questa dimensione, questo quadro, vale anche in Francia. Pensate, per esempio, quello che significò in Francia la soluzione della crisi del regime con la Quinta Repubblica di De Gaulle, con quello che ci vorrebbero dare adesso qui in Italia, insomma peggiorata, con il semipresidenzialismo. Pensate a quello che significò in quel quadro la sconfitta della sinistra socialista, democratica, comunista. Pensate al fatto che in quel quadro lì, grazie a una a quelle che sono le politiche della grandeur, cioè del nazionalismo gollista, in una qualche misura si manteneva intatto quello che è il mito della destra francese, che è l'esercito. L'esercito rappresenta la nazione sul modello napoleonico e poi sul modello dell'esercito della Terza Repubblica, che si era sempre prestato, cioè quello di se qui c'avevamo una guerra civile presa, lì ci fu un colpo di Stato pulito. Comprendete, tutto questo significa che le contraddizioni tra la Francia profonda e la Francia delle città, tra i giovani e i vecchi, diventano esplosive. E ugualmente questo avviene in Germania, dove la battuta anticomunista mantiene all'interno del sistema corpi che continuano a derivare la loro origine, almeno la loro origine concettuale, non tanto nel nazismo, ma in quello che è l'autoritarismo prussiano. E tutto questo si coniuga tra i vari pezzi, si coniugano, soprattutto se si accetta la visione che il 68 è una battaglia di liberazione, di battaglia più che di ricerca di un nuovo ordine. Per certi aspetti anche, la metterei tra virgolette, liberale, nel senso di un accesso a consumi diversi da quelli che c'erano prima. Prima ho fatto riferimento ai consumi musicali, ma in quel periodo aumenta il consumo di cinema, in quel periodo aumenta il consumo di paperback, cioè di libri economici, in quel periodo aumenta per certi aspetti il flusso dei giornali autoprodotti. E quindi hai una situazione in cui la gente riprende parola, comincia soprattutto i giovani che prendono la parola e trascinano in questa vicenda, quasi per imitazione o per contagio, anche quelli meno giovani. Per questo è un dato internazionale. L'elemento di diversità dell'Italia è che questa roba dura in Italia almeno 10 anni, dal 68 fino al 76, 78, fino al terrorismo, fino all'esplodere della lotta armata, delle Brigate Rosse, che ne rappresentano la conclusione. Io non so se la rispondo alla domanda, perché è un attimo più specifica, ma tu adesso ti dice che la legge Battaglia che è invidiata da tutta Europa, anche nel suo campo è tra i più avanzati. Quali potrebbero essere ragioni specifiche per cui proprio in Italia si è arrivati ad essere all'avanguardia in un campo, date anche le condizioni iniziali di arretratezza sui diritti civili? Perché tutto sommato, che vedo una spiegazione un po' paradossale, è la stessa questione della Costituzione. La Costituzione è una legge costituzionale che tutto il mondo ci invidia. Peccato che non sia applicata. La legge Battaglia è una legge manicomiale che tutto il mondo ci invidia. Peccato che in tre quarti dell'Italia non sia applicata. e che tutto sommato si cerca di ritornare indietro rispetto allo stesso livello legislativo, dicendo era un'utopia, non si poteva realizzare, torniamo indietro perché tanto è perfettamente inutile che ci teniamo una legge così utopica che non riusciamo neppure a realizzare nei punti di eccellenza maggiori del corso. Questo per certi aspetti è vero. Ora, è vero anche per altre cose. La legge sull'interruzione di gravidanza è una legge non avanzatissima, ma relativamente di buon senso avanzata. Però nel momento in cui tu ti trovi di fronte che ha contraddizioni, tipo l'obiezione di coscienza, tipo il fatto che il medico che fa aborti non fa carriera, tipo il fatto che è il punto dell'obiezione di coscienza, tipo le predicazioni, è ovvio che il livello legislativo è costretto ad arretrare oltre il limite che si era fissato, perché in una qualche misura nessuna riforma è irreversibile, né quella delle scuole, né quella dell'università, né quella del welfare, lo vedete oggi, cioè nel momento in cui tu non presidi i livelli legislativi raggiunti, torni in una qualche misura alla condizione precedente. Cioè tutto questo presupponeva un'ulteriore cosa, presupponeva sostanzialmente una cosa in parte utopica e in parte no, che ci fosse una comunità di pazienti, di medici, di infermieri, di comunità locali che in una qualche misura riuscissero a stare assieme e fare argine e costruire elementi di partecipazione e di solidarietà, perché poi alla fine se tu ti trovi da solo di fronte a una malattia che non riesci neppure a definire, la situazione è pesante, è estremamente pesante. Cioè, nel momento in cui poi ti cambiano gli assetti sociali e i meccanismi di comunità non esistono più, o non esistono più nella stessa maniera di prima, è ancora più pesante. E allora tu hai bisogno continuamente di rispostare, come si dice, il limite, indietro, in avanti, ma mantenendo sostanzialmente intatta quella che è l'idea. Ciò prevede un livello di organizzazione oggi difficilmente pensabile come in quel periodo. Prevede intellettuali, prevede giustificazioni culturali ideologiche, prevede la messa in discussione dei vecchi, degli apparati concettuali correnti, prevede giornali che si interessano di queste cose, trasmissioni televisive. L'unica trasmissione televisiva che hai avuto è stata la biografia di Bagaglia, fatta bene e passata in seconda serata. Perciò, in una qualche misura trasformata in una sorta di geografia del medico. Cioè, chi è lì il protagonista? È lui. Non la comunità dei medici, dei malati, degli infermieri che in una qualche misura hanno costruito la battaglia di cui lui era per certi aspetti il simbolo e il portavoce. Però poi alla fine quello che percepisce, anche perché l'attore tiene scena ed è bravo, è questo. La fiction personalizza sempre, però non si vede. Non ci sono altre domande, stiamo pure qui. Nel foglio delle firme a che punto c'è? Non sta nessun punto. E avete firmato tutta l'uscita un attimo prima del momento. A tutti quanti? No. E allora chi ha firmato per l'uscita? Per quanto riguarda il posto, ne cercheremo altro per domani perché qui è il conosce. Lasceremo degli appigli qua a destra e a filosofia a guardare. Grazie. Thank you.